Cerrar el muro. Per me è alto. Faglielo provare a quello che è, poi se è buono. Vediamo, dai, metti qua. Che viene il temporale. E boh, l'hai fatto venire tu. Da Milano, yes. Lo c'entro io. 30-10.